Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Quando sono le 8:36 minuti, buongiorno, buona domenica a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, il numero verde, cominciate subito se volete a digitarlo per stare con noi, per commentare le notizie di questa settimana. Tra poco un bel riepilogo di cosa è successo negli ultimi 7 giorni e, quando possibile, qualche bella notizia. Carlo, Milano Monterosa? Bello, c'è il sole, sì. Siamo molto contenti. Ce la facciamo, forse siamo usciti. Il sole. Esatto. Non ce l'ha fatta Gabbani ieri sera all'Eurovision, è arrivato credo settimo, qualcosa del genere. Ha vinto. E invece sembrava che avesse un sacco di possibilità. Sì. C'è stato un momento in cui sembrava che dovesse vincere. Ma lui. È tutta una gara di tatticismi, perché ogni paese vota tutti tranne quello del proprio paese. E quindi, secondo me, c'è tutta una gara per fare della strategia. Ma dei tatticismi, ma proprio delle popolazioni, nel senso popolazioni. Che si sentono tutti al telefonino, sì. E dicono: no, ascolta, votiamo adesso. Poi c'è il televoto. Che però, devo dire, hanno confermato il giudizio delle giurie. Quindi, io non l'ho sentita la canzone del ragazzo portoghese. Ma che ha strappato un grandissimo consenso. Bravo. Ma in realtà, al di là della canzone di chi vince, la cosa più bella è che ci sia un concorso che sia europeo, dove si vota tutti insieme. E dove c'è l'Australia, ho scoperto. Come l'Australia? All'Eurovision c'è l'Australia, ragazzi, l'ho scoperto ieri sera. Allora ritiro però quello che ho detto, perché mi sembrava una cosa molto europea, nel senso che mi sembrava un po' noi che siamo anziani, ricordiamo i giochi senza frontiere, quando per la prima volta in televisione ci si sentiva europei, ci si sentiva anche in lotta con i cugini francesi piuttosto che gli olandesi, piuttosto che gli altri europei, ed era bello sentirsi tutti insieme, però ognuno con le proprie differenze. Quel che resta dell'Europa, potremmo dire. L'Europa è l'Australia. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana. È il primo indizio che vi vado a dare per indovinare, portarsi a casa anche oggi un libro a tema sugli argomenti della giornata. Il primo indizio è un personaggio che divide. Quindi ottimo, pensate, ottimo. È un indizio ottimo. Posso dirlo che è un indizio ottimo. È un indizio ottimo. Quindi 800 24 00 24. Vai. Oggi il Presidente del Consiglio, durante il Consiglio dei Ministri, appunto, ha dato comunicazione della cosa e abbiamo istituito un tavolo di lavoro tecnico composto dagli uffici del Ministero della Salute, del MIUR e della Presidenza del Consiglio, per lavorare su questo testo base e arrivare a un testo definitivo per il prossimo venerdì, quindi per il prossimo Consiglio dei Ministri. L'obiettivo che tutti quanti noi abbiamo è quello di mettere totalmente in sicurezza la salute degli italiani. Vaccini, un provvedimento la settimana prossima, è stato annunciato questa settimana dal governo, che dovrebbe introdurre l'obbligatorietà per iscriversi a scuola. Tutte le volte che parliamo di vaccini, la domenica mi sento il morbillo, mi sento un sacco di malattie. Ma come fanno gli altri paesi? Come funziona negli altri paesi per quanto riguarda l'obbligo di vaccinarsi e l'iscrizione alle scuole o nei luoghi pubblici? L'abbiamo chiesto questa settimana al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Ricciardi, che dà una risposta interessante, cioè fa capire che non è che l'Italia sia un caso a parte rispetto all'Europa. C'è obbligatorietà, in Italia sono 5 vaccini obbligatori, sono paesi dove ce ne sono meno di obbligatori, dove però sono i servizi. Dove si vaccinano di più. Dove si vaccinano di più, e questo è il paradosso, sentiamo. Gli stati si comportano in maniera diversa, ci sono alcuni paesi come l'Italia, la Francia, la Grecia che storicamente si sono affidati all'obbligo vaccinale, ci sono altri paesi come la Gran Bretagna e il Nord Europa che l'obbligo vaccinale non lo danno ai cittadini, ma lo danno ai servizi, cioè sono i servizi che sono obbligati all'offerta attiva, cioè un medico di medicina generale inglese di fatto è obbligato a offrire attivamente la vaccinazione, anzi è obbligato a raggiungere le coperture ottimali, così come un medico svedese. Allora, dobbiamo mandare un saluto a queste ragazze al 349-238-6666, le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, che ci ascoltano sempre. Ci ascoltano, quindi, ci scrivono spesso dei messaggini, quindi sempre loro. Giusto. Sempre loro. Sì. Beh, insomma, chi c'è dietro la tastiera non lo so, e quante siano le ragazze di Caserta poi. Allora, a voi e a tutti gli ascoltatori, le buone notizie sul fronte della caccia ai vitalizi. Vediamo, eh. La cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che ha voglia di ballare, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano. Iniziano bene, finiscono male, può capitare che li trovi a rubare. E fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi vitalizi, cambia. Vitalizi, una dei privilegi, possiamo usare tranquillamente questa parola, più odiati, più odiosi forse della classe politica, avevano un'antica origine che poteva avere anche un significato, però oggi è diventato semplicemente questo, un privilegio, cioè un assegno elevato di pensionamento, quando dopo fate anche pochi giorni di consigliature, è una cosa folle, che piano piano si sta eliminando. Però il problema è questo, che sono come la gramigna, più li tagli e più crescono, perché poi risbucano da altra parte sotto altre forme. Allora, noi abbiamo convocato il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Per essere con noi anche di domenica mattina. E voi avevate già fatto degli interventi, siete stati tra i primi. Il 15 gennaio del 2013, sì, quindi 4 anni fa, sì, io insieme a Matteo Richetti e la mia assessora attuale Palma Costa e altri 15 consiglieri dell'Emilia Romagna, poi se ne aggiunsero altri nei mesi degli anni successivi, noi ci cancellammo autonomamente, senza alcuna imposizione prevista, il vitalizio. L'autoriduzione. Quindi, no, ce lo siamo cancellati. Non è che l'autoeliminazione, chiedo scusa. Quindi noi allora, 4 anni fa, decidemmo che il vitalizio, come ha detto lei, era un privilegio, sì, che non era più compreso. Noi ci cancellammo il vitalizio e quindi io, così come gli altri consiglieri, in quel momento, eravamo circa alla fine, fummo credo 20-25, noi il vitalizio non lo riceveremo mai, ma facemmo di più. Dopo poco facemmo una legge, prima in Italia, che prevedeva che da questa legislatura, cioè da quella successiva, che poi ricorderà si è dovuta fare prima perché Vasco Errani fu condannato e si dimise, per poi essere completamente, sì, assolto in Cassazione, noi decidemmo di fare una legge che prevedeva che noi e quelli dopo di noi, in futuro per sempre, il vitalizio non lo potranno mai ricevere perché è stato cancellato. È stato cancellato il vitalizio, e cosa rimane però? Poi veniamo anche all'ultimo intervento fatto adesso. Non rimane proprio nulla, anzi le dirò di più, e se lo volete dire ci fate un piacere, perché si parla sempre degli sprechi, mai delle virtuosità o molto poco. Noi siamo siamo proprio a occuparci di questo, e poi lo può dire lei perché è in diretta, quindi esatto, ci mancherebbe. No, ma non c'entra, è che ripeto, se ne parla poco, è inutile che ci giriamo intorno, e voi fate un servizio molto meritorio, ma io appena diventato presidente, sì, all'inizio del 2015, la prima legge che l'Emilia Romagna ha fatto in questa legislatura, la numero uno, è stata questa, tagliare 15 milioni di euro di costi alla politica. Io sono il presidente di una delle 20 regioni, una delle più grandi, sono quello che ha l'indennità più bassa di tutti, perché noi abbiamo portato l'indennità di un consigliere regionale della mia regione pari all'indennità del sindaco della città capoluogo di regione, e di questo ha passato dal presidente della giunta ai consiglieri tutti. Ci siamo cancellati il cosiddetto TFR, cioè una mensilità all'anno per 5 anni, il trattamento di fine rapporto, Esatto, abbiamo azzerato i fondi ai gruppi consigliari. Sì. E quindi queste cose, insieme al fatto che il vitalizio non c'era più, lei capisce che ha dato una risposta. No, io le ho chiesto cosa resta, perché resta comunque una indennità che scatta. No, ma un'indennità che scatta dopo una certa età. No, per noi non rimane più nulla, scusi. Cioè, io, Stefano Bonaccini, non riceverò mai nulla dalla mia regione. Ecco, ma che allora, indennità? Io ho preso l'indennità adesso perché lavoro 12 ore al giorno, 7 giorni a settimana, e mi sono portato l'indennità. Facciamo una piccola pausa sulle informazioni sul traffico che dobbiamo fare. Anche e perché poi, io spero che lei prenda qualcosa, perché mi spiace che un politico Esatto, il problema è questo, che con questi vitalizi si rischia di non capire più niente, perché sono stati annunciati altre volte tagli che poi in effetti non sono stati fatti. In questo caso noi abbiamo detto la Emilia Romagna è stata la prima a schierarsi e a fare dei tagli effettivi. Tra l'altro diciamo che questo ultimo provvedimento di cui adesso ci parlerà, che prevede anche un contributo di solidarietà da parte dei consiglieri che invece hanno già percepito e percepiscono il vitalizio per via delle precedenti leggi, è stato votato da voi insieme al Movimento 5 Stelle, che come sappiamo in questi anni è stato il partito che ha spinto di più, e quindi come dire c'è anche questa unanimità che è da sottolineare. 800 24 00 24, agli ascoltatori se vogliono cominciare a prenotare il loro intervento su questo che resta sempre un tema piuttosto caldino. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 8:49 minuti, di nuovo in diretta, di nuovo buongiorno. Siamo con Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, a commentare il nuovo intervento sui vitalizi. È giusto specificarlo, degli ex consiglieri regionali per i quali avete fatto un nuovo intervento. Partiamo da questo, sì, dall'ultima notizia. Sì. Contributo di solidarietà. Siccome noi c'eravamo e ci siamo cancellati tutto, abbiamo pensato che fosse giusto che anche coloro che l'avevano maturato, ed era un diritto acquisito, c'è poco da fare, anche perché certo, eventuali ricorsi troverebbero la vittoria di chi li fa. Noi abbiamo fatto alcune misure molto semplici. La prima, non era normale che si potesse, se lo si voleva, prendere il cosiddetto vitalizio al compimento del 60° anno di età. E l'abbiamo portato per quelli che ancora non lo prendono e lo dovranno ricevere. Tenga conto che sono circa 170 gli ex consiglieri e assessori dei decenni precedenti. Abbiamo detto, da noi in poi, per noi e per quelli futuri, non ci sarà mai più il vitalizio, quindi nessuna indennità di nessun tipo. Quindi questa è la notizia che avevamo già, questo è quello che avevate già fatto. E adesso da 60 anni verrà portato a circa 67 anni, come per i dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi parificato a un normale dipendente pubblico. A un normale dipendente pubblico. Poi si è deciso di impedire il cumulo di vitalizi, cioè se hai fatto l'europarlamentare, o hai fatto il parlamentare, o hai fatto l'assessore regionale o il consigliere regionale di un'altra regione, in questo caso è meno facile, no? Credo ce ne sia saltellare da una regione all'altra, da un vitalizio all'altro. Esatto. Però non si prendono più tre vitalizi, ma se ne prende solo uno in quel caso lì, giusto? Uno, cioè chi ha fatto l'europarlamentare o il parlamentare, eccetera, deve decidere se è stato anche consigliere o assessore già di optare per un solo vitalizio. Certo. Anche questo mi pare una misura di assoluta equità e buonsenso. Sì, molto. Terzo, abbiamo chiesto agli ex consiglieri e assessori che percepiscono già il vitalizio di un contributo di solidarietà percentuale che arriva al massimo fino al 15% nei prossimi anni, cioè di decurtazione di quello che già era acquisito e quindi un diritto, perché abbiamo detto o si guarda il mondo all'altezza dei problemi reali oppure no, si fa fatica. Certo. Questo comporterà che noi risparmieremo, ad esempio, nei prossimi anni 1 milione di euro, e via via poi in futuro lei pensi che risparmio è non aver più nessuno che lo prenderà, e questo significa che abbiamo deciso con l'Assemblea legislativa, anche con coloro che non hanno votato a favore, che quel fondo diventerà un fondo per politiche mirate, cioè da un lato il lavoro, dall'altro le politiche per la legalità. Cioè il fondo intende il contributo di solidarietà? No, cioè, i soldi risparmiati. I soldi risparmiati. Quello che viene risparmiato da quella parte, perché l'altra, i 15 milioni di euro che in questa legislatura, come vi ho detto all'inizio, risparmiamo, vanno già dentro al bilancio della regione, Questo è un fondo ad hoc per gli ex consiglieri, certo, ex assessori, che verrà messo per quelle politiche. Tenga conto che io gliela dico così, so perfettamente, per me l'onestà e la sobrietà, e credo che come sobrietà nessuno ha fatto più di me, più di noi, è un valore e per me è una precondizione per far politica. Poi però anche qui voglio essere molto onesto con me stesso. Onestà e sobrietà sono valori, poi però bisogna anche essere capaci, eh? Non sono, esatto, nel senso che non è sufficiente. Bisogna essere anche capaci, puoi essere onesto e sobrio ma fare disastri mentre mi dici. Dopodiché guardi, io se poi uno riesce a essere capace di essere onesto, allora ecco, questa è la vera scommessa, no? Che vogliamo per ridare la politica agli istituzioni. E poi mi faccia così, io governo una regione che ha 4 milioni e mezzo di abitanti, un bilancio che attrae attorno ai 12-13 miliardi di euro. Quando incontro le persone è normale che io guadagni un po' più di loro. Tenga conto che io prendo netti attorno tra i 6-7 mila euro al mese per 12 mesi, perché non c'è la tredicesima. Ci siamo cancellati tutto il resto, non avremo privilegi o vitalizi in futuro, né indennità di alcun tipo, nemmeno di trattamento di fine rapporto, come era inteso nelle regioni. Infatti è questo che mi sembra importante, nel senso che è giusto eliminare la questione del privilegio, ma nessuno di noi non vuole che voi siate, che i politici siano pagati. Ma guardi, io le anche, dico così. No, ma sulla questione del trattamento di fine rapporto, è la giunta che è stata eliminata, nel senso che voi ce l'avrete, spero, un trattamento di fine rapporto. Noi ce l'abbiamo rispetto al lavoro che ognuno di noi fa. Ah, perfetto, no, questo mi tranquillizza. Dava una mensilità in più, all'anno aggiuntiva, in più, che veniva riconosciuta alla fine. Abbiamo cancellato anche quella. Perfetto. Dopodiché io dico, le persone che incontro devono sapere che guadagno qualcosa in più della media delle persone normali, ma non è così distante dalla percezione del buon senso, perché altrimenti davvero io credo che quello che è stato un distacco dalle istituzioni, certo a volte per la corruzione, a volte per la lentezza della politica, io credo a volte anche per i privilegi che un po' veniva percepito coloro che fanno politica al massimo livello avevano. Dopodiché, ripeto, l'ho detto io, non è questo che fa di un amministratore un bravo amministratore, ma io credo che però, e lo vedo, lo sento quando ne parlo con i cittadini, su questo capiscono che abbiamo fatto una cosa importante, ripeto. E io adesso lo chiedo agli ascoltatori all'800 24 00 24 se vogliono intervenire per confermare se il si può fare che oggi arriva dall'Emilia Romagna li convince. Noi ringraziamo il presidente Bonaccini, siamo in chiusura, abbiamo il GR. La notizia è una nuova sforbiciata in Emilia Romagna. Io ho esordito dicendo che i vitalizi sono come la gramigna che da una parte l'Italia e dall'altra ricresce, perché questo è accaduto in passato attraverso varie modalità di rimborsi ma anche di ritorni in leggi e leggine di cui sappiamo benissimo. E di cambi nome. Però, esatto, al momento è la situazione in Emilia Romagna, una situazione abbastanza radicale, c'è l'unanimità anche da parte del Movimento 5 Stelle che è un po' su queste questioni il garante, lo sappiamo. 800 24 00 24, cerchiamo anche un personaggio della settimana che divide. Dopo il giro. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua. Buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. 800 24 00 24. Abbiamo gli ascoltatori in linea per giocare con noi alla ricerca del personaggio della settimana. Abbiamo detto un personaggio che divide. E poi per commentare, possiamo dirlo, i vitalizi in Emilia Romagna, certo, non esistono più. Ogni tanto diciamolo così come un mantra. Non ci sono più i vitalizi in Emilia Romagna. Notizia in realtà che parte da lontano. Però l'ultimo intervento fatto questa settimana in regione Emilia Romagna è il contributo di solidarietà sui vitalizi che sono già stati erogati in passato, e anche l'innalzamento che sono un diritto acquisito, su quello ci si può far poco, qualcosa in più si potrebbe fare anche su quello, ma ci sono ricorsi. Beh, è stato fatto in realtà, perché dice non è più a 60 anni, ma nel caso lo si riceve a 67. Esattamente. 800 24 00 24, chi abbiamo in linea? Vediamo un po'. Polli da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Il mio nome è De Bortoli. Perché? Pensavo il suo nome, nel senso che lei facesse De Bortoli di no, cognome. Il nome che io penso della vostra domanda è De Bortoli. Sì, certo. È perché è uno che divide. È uno che divide. La notizia di questa settimana, se ne è abbastanza parlato, però insomma, se vuole... Sì. All'ossessione. All'ossessione. No, non è questa la notizia. La notizia è che lui ha detto, tramite il suo libro, qualche cosa... relativamente al ministro Boschi alla Banca Etruria, un incontro per far acquisire Unicredit Banca Etruria, eccetera eccetera, un personaggio che divide assolutamente, ma non, non è il personaggio Polly, grazie no, volevamo mille. Un po' il senso di chiedervi un personaggio. Il bello è che sentiamo da voi raccontare le storie che secondo la vostra impressione sono state quelle più importanti della settimana. Valentina da Latina, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. Buongiorno. Allora, la mia risposta è l'assegno di mantenimento, in quanto appunto la Cassazione ha intrapreso una nuova interpretazione della legge e quindi viene data più rilevanza all'effettiva capacità di mantenimento della persona appunto più debole tra i due coniugi. Eccolo lo scrosso di applausi. È arrivato l'applauso come un divorzio breve, è arrivato. Esatto. È per quello. Divide, e appunto quindi l'assegno di mantenimento interviene proprio nel momento del divorzio, e quindi ho pensato, mi si è accesa questa lampadina subito. Aspettavamo la parola divorzio, perché il personaggio per me era il divorzio, quello, ma certo. ovviamente l'assegno di mantenimento, la notizia è quella. È anche una notizia, se vogliamo, che divide un po', perché è stata saltata come una buona notizia, perché ci sono mariti, padri separati che si sono rovinati spesso perché hanno dovuto garantire un mantenimento in alcuni casi eccessivo. È un cambio di principio dall'altra parte, pazzesco, sì. Perché fino a prima di questa legge in realtà bisognava mantenere lo stesso livello economico precedente al divorzio, invece adesso è sufficiente che uno sia in grado di sostenersi. Esatto, non è detto che sia una buona notizia, nel senso che, come giustamente la divorzista De Paci, Bernardini De Paci, ha sottolineato, è che la moglie di Berlusconi con questa legge non prenderebbe niente, nel senso che è in grado di sostenersi, però mantenere il precedente livello economico invece significa ricevere un assegno milionario. Comunque, Valentina, esatto. A te di tutto questo non interessa niente, interessa solo che hai vinto, hai indovinato, quindi ti porti a casa un libro a tema sugli argomenti di oggi, verrai contattata dal nostro centralino. Ascoltatori, adesso che facciamo? Ci dobbiamo inventare un altro personaggio. Un altro personaggio, ce l'abbiamo sempre di scorta. Indovinato prestissimo. Prestissimo, quindi andiamo con un altro personaggio e con un altro indizio. Carlo. Con un altro personaggio, eravamo impreparati a tutto questo. Il personaggio è un leader. È un leader, quindi cioè, pensate... Impreparati, ma non così tanto. No, il personaggio no, c'è e ci mancherebbe altro. 800 24 00 24, cerchiamo un leader. Aware that a number of NHS organisations have reported that they have suffered from a ransomware attack. This was not Theresa May. The NHS. It's an international nonché attack. Premier britannico che annuncia, la riconosci dalla voce, volevi dire? Sì, esatto, dall'accento. Dall'accento. Che annuncia questo attacco di hacker che è partito dalla Gran Bretagna, è stato il primo paese a dare l'annuncio, ma poi si è esteso a centinaia di paesi in tutto il mondo. Uno dei più grandi attacchi degli ultimi anni. Hanno chiesto un riscatto per liberare i computer ostaggi. No, rido, ma c'è poco da dire. No, era una notizia incredibile. Non si sa mai bene come darla, perché in realtà non si è ancora esattamente capito che cosa è accaduto e soprattutto che cosa possa accadere. In Italia invece è stata la settimana in cui hanno debuttato i commissari dell'Alitalia. Un déjà vu su tutta la linea. Sentite Enrico, tutta la linea aerea. Tutta la linea aerea. Enrico Laghi, uno di loro, che ripete quello che sarà l'iter a questo punto per l'Alitalia, una cosa che abbiamo sentito dire centinaia di volte, non solo per l'Alitalia, a dire la verità, ma insomma in particolare. Io stesso ricordo un sacco di estate in cui si parla di questo, del problema Alitalia. Il bando entro metà di maggio, metà giugno aspetteremo poi di presentare una richiesta di offerte non vincolanti, apriremo la data room entro la fine del mese di luglio, speriamo di ottenere le manifestazioni di interesse non vincolanti e da lì lavorare per completare le attività tra la fine di settembre e mese di ottobre. Va bene, sentiamo anche Di Battista, sì, in un comizio che parla dell'Alitalia, così sentiamo anche un'altra campana, vai. Air France ha 80.000 dipendenti, Alitalia ne ha 10.000, Lufthansa ha 140.000 dipendenti, significa che in altri paesi le compagnie aeree danno lavoro, danno sviluppo e fanno sì che tanti turisti arrivino appunto in questi paesi. Noi che siamo il paese più bello del mondo vediamo fallire una compagnia aerea e poi danno la colpa ai lavoratori, questi pezzi di merda. 800 24 00 24, c'è il traffico, non quello aereo ma quello stradale. Poi torniamo tra poco, parleremo di un'altra buona notizia della settimana, l'approvazione della legge sul telelavoro, lo vogliamo chiamare così anche se viene nominato smart working. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come on baby and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that bang bang. Girl stop it when I just bang bang and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. You may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Now work it out. Allora, buongiorno e buona domenica, Domenico De Masi. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, De Masi, questa settimana è stata finalmente, possiamo dire, approvata una legge che in qualche modo si aspettava da tempo, forse da tanto tempo, la legge sullo smart working. Sì. Possiamo chiamarlo in italiano telelavoro, giusto? Ma in parte sì, solo che se lo chiama in italiano... È un po' diverso. No, non è che è diverso, è che non ha la forza, perché noi ci innamoriamo di una parola inglese mentre rifiutiamo una parola italiana che ci sembra banale. Tutto ciò che si capisce ci sembra banale. Esatto. Abbiamo bisogno di non capire praticamente. Fantastico. Però no, è giustissimo quello che sta dicendo, però in realtà non si dice anche che è un po' diverso, perché il telelavoro diciamo era tipicamente pensato per le mansioni non qualificate come i call center, invece quello di cui si sta parlando adesso, ovvero lo smart working, riguarda anche lavori più qualificati ed è diverso, perché in realtà sono persone che lavorano all'interno dell'azienda ma hanno la possibilità per un giorno, due giorni, tre giorni, un solo pomeriggio, di lavorare da casa? Sì, e che differenza c'è? Praticamente quasi nulla. Però manteniamo questa differenza, altrimenti finisce per essere rifiutato il concetto, il quale in Italia ha una storia lunghissima. Vede, questo è interessante, in effetti, De Masi, è vero. Sì, si dice che il concetto di telelavoro sia stato inventato, diciamo, da un certo Niels in America, nel 1900 mi pare 73. Io ho un dépliant ancora con me di un convegno che organizzammo all'IRI nel 1969. Quindi lo chiamano smart work perché vogliono dire che l'hanno inventato loro, però in realtà l'ha inventato Bravissimo. Lei e quindi no, giustamente non io. È un po' come il telefono. Se ne parlavo in Italia, solo che allora pensavamo di fare per alcuni casi il telelavoro diciamo col telefono, perché era l'unico strumento che c'era. Certo. Poi ricordo che nella metà degli anni 60 l'amministratore delegato della Ericsson, no, degli anni 70, metà anni 70, mi chiamò perché aveva letto un mio articolo sul telelavoro e mi chiese se era possibile applicarlo per alcuni loro lavoratori che andavano tutte le mattine da Caserta a Napoli. Ma è perfetta questa cosa. Quindi in realtà è semplicemente che il telefono adesso si chiama smartphone e quindi il telelavoro è diventato smart work. Tutto qui. Però devo dire che facendoci i calcoli, effettivamente col telefono la cosa veniva a costare molto. Eh sì. Poi dopo creammo una società, sì. Siamo a metà degli anni Ottanta questa volta, che si chiamava SIT, cioè Società Italiana Telelavoro. E questa società la creammo per indurre il governo a fare delle leggi che consentissero il telelavoro. Qualcosa passò, soprattutto poi dopo con il governo Bassanini, passò soprattutto per il lavoro pubblico, sì. ma la realtà è che i capi nelle aziende sono stati sempre contrari al telelavoro. Perché temono di perdere un po' di controllo. Però diciamo anche una cosa. Che io chiamo la sindrome di Clinton, cioè il bisogno di avere la stagista a portata di mano. Questo è un colpo basso. Sotto la scrivania, come si suol dire. Diciamo una cosa, no? Che in effetti non è che ci fosse bisogno di per sé di una legge sullo smart working o sul telelavoro, o anche lavoro agile, perché possiamo avere anche questa terza definizione in italiano, che già molte aziende lo praticavano. Quello che introduce questa legge è sono alcuni principi generali, tra cui uno che mi sembra importante, De Masi, che è quello della parità di trattamento di chi fa il lavoro da casa con chi sta in ufficio, parità di trattamento economico e normativo, perché quello che poteva accadere in passato era di dire va bene, ti concedo di lavorare da casa, però ti chiamo a qualunque ora, ti mando mail a qualunque ora e non ti lamentare se poi hai, insomma, del lavoro da fare in qualunque ora del giorno. Perché il paradosso fu questo, che da una parte si rifiutava il telelavoro, dall'altro se si approvava il telelavoro si voleva applicare a questo tipo di attività le stesse praticamente norme che c'erano all'interno. Per esempio, mi si chiedeva da parte di alcune aziende che avevano una qualche idea di applicare il telelavoro. Dice, ma poi come faccio a sapere che quel lavoratore alle 9 precise sta lavorando? E io gli dicevo, ma non c'è bisogno, perché l'importante è che compia il proprio lavoro. A che ora il telelavoro si può fare solo se il lavoro è svolgibile, diciamo, per obiettivo. Cioè, esatto. Io le dico, entro domani sera tu mi devi scrivere l'articolo X, poi che quest'articolo me lo scrivi la mattina, la sera, la notte, al bar, a casa, puoi fare quello che ti pare, certo. Che ti fai aiutare o meno da tua moglie, questo non mi deve interessare. Io devo avere un articolo ben fatto domani sera. Ecco, vogliamo ricordare giusto. Però De Masi, anche proprio banalmente, quali sono i vantaggi del lavoro agile, perché bisogna dirlo, magari qualcuno sottovaluta, pensa semplicemente al fatto la comodità di stare a casa, perché è un po' più generale la questione, no? Ma no, allora vediamo per i vari soggetti che entrano in gioco. Per l'azienda c'è un risparmio netto proprio sulle superfici degli uffici. I costi, proprio lo sborso economico. Uffici, certo. Luce, eccetera, eccetera. Per l'azienda c'è un crollo netto di microconflittualità, quella piccola conflittualità che non è conflittualità di classe, ma che è proprio piccole e medie per il parcheggio, eccetera, eccetera. Cioè, che si perde tempo negli uffici a discutere delle cose che riguardano il lavoro, a litigare, a fare riunioni magari improduttive, eccetera, eccetera. Questa cosa qua sparisce. Terzo grande vantaggio per l'azienda è che è costretta appunto a trasformare i lavori controllati durante il processo di svolgimento in lavori per obiettivi, e questo comporta una razionalizzazione di tutta l'organizzazione. Passiamo adesso al lavoratore. Il lavoratore risparmia il tempo, che spesso è enorme. Sono pendolari che fanno un'ora per andare, un'ora viaggio, per tornare, certo. 2 ore al giorno di lavoro. I soldi del viaggio, risparmia anche. Risparmia i soldi per tutto. Può badare molto di più ai problemi familiari, per esempio andare a prendere il bambino all'asilo, alternarsi con l'altro coniuge in alcuni lavori domestici, decidere gli orari di lavoro secondo i propri bioritmi. C'è chi ama lavorare, per esempio come me, soprattutto la notte, altri che amano a lavorare la mattina presto. c'è la possibilità di stabilire i momenti di pausa, andare giù al bar, eccetera. C'è una rivitalizzazione della vita di quartiere, perché ora praticamente noi siamo estranei sia al quartiere in cui viviamo, perché ci viviamo solo di notte, sia in quello in cui lavoriamo, dove lavoriamo, perché stiamo chiusi negli uffici, lavoriamo solo di giorno. Beh, anche questo ci sarà, però alla, sì, prego. Sì, sì, sì. I vantaggi per la città: finiscono le ore di punta. Diceva Ennio Flaiano, nelle ore di punta è impossibile perfino l'adulterio. Le ore di punta sono una tragedia, praticamente. In questo modo niente più ore di punta, meno traffico e meno adulterio. Si riduce tutta la necessità di manutenzione stradale, si riduce fortemente lo smog, tutto l'inquinamento. Ci sarà però qualche svantaggio. Esatto, da qualche lati parte. Negativi non ce n'è? Dunque, io telelavoro con i miei collaboratori da anni. Ognuno di noi a casa sua, ora non c'è più il telefono, per fortuna c'è il computer che consente di essere sempre insieme, cioè consente di mettere i volti di ognuno di noi sul proprio schermo. Cioè fate le riunioni via Skype. Sì. Ma più di riunione, per ore abbiamo sempre tutto, e quando c'è bisogno io dico alla mia segretaria Elisabetta: senti Elisabetta, mi pigli quel biglietto di aereo, eccetera eccetera. Si lavora molto più insieme di prima, perché ora per fortuna c'è Skype. Ma lo svantaggio, c'è uno svantaggio in tutta questa cosa? O tipo l'assicurazione, qualcuno dice, guardi, nel senso gli che svantaggi che sono stati trovati dai capi, sì, pur di evitare il telelavoro, sono stati infiniti. Allora, il primo di tutti che viene lamentato, ed è proprio la sciocchezza enorme, è l'isolamento. Già, come è vero, uno sta a casa, come se uno lavorasse su un'isola. Io ho i rapporti con i vicini di casa, col giornalaio, con la signora del bar sotto casa. Cioè, quindi casa. Lei consiglia a chi fa il telelavoro di non chiudersi in casa, ma di uscire ogni tanto? Assolutamente. Perché uno può lavorare, in effetti, anche dal bar, o l'estate al parco, può fare quello che gli pare, o a casa di un amico, di un vicino. Ma poi può avere rapporti con la cassiera sotto casa, che prima aveva con la collega della stanza a fianco, insomma, certo. La comunità si ricrea a livello di quartiere. Ecco, questo forse potrebbe essere un lato negativo, magari c'è qualcuno che va a lavorare anche perché non ha voglia di stare con la propria moglie invece di incontrare la propria segretaria. La cassiera. Quello deve assolutamente non però quello lavorare. È un altro problema. Perfetto. De Masi, a quale tipo di lavori, ce lo diceva anche prima, si adatta al telelavoro? Grandi aziende, per esempio, e per le piccole no, più difficili? No, guardi che adesso tutte le... Perché lo fanno solo la Ferrero, la Barilla, la Nestlé, eccetera? Guardi, tutte le aziendine, le micro aziendine che sorgono oggi, sì, cioè quando 5 miei ex studenti si laureano e fanno una piccola azienda, sì, si creano un lavoro, mai comprano o fittano una sede perché non avrebbero soldi. E quindi ognuno vai col telelavoro a casa, sì, e poi si vedono al bar quando hanno bisogno di vedersi, oppure si vedono in un co-working, cioè questi uffici che sono fatti, diciamo, flessibili, per cui uno fitta una stanza per una riunione un certo giorno, da una certa ora a un'altra ora, paga e via. Senta, De Masi, lei ha detto che i capi sono contrari un po' resistono, no? Perché temono, sì, di perdere il controllo, ma anche i sindacati forse, perché senza infatti, più azienda... L'altro soggetto che volevo enumerare dopo il lavoratore, l'azienda e la società è appunto il sindacato. Il sindacato, se diventa telesindacato, ha tutti i vantaggi che abbiamo detto prima, anche perché può raggiungere tutti i suoi iscritti in pochi secondi. Quindi rassicuriamo... Con una newsletter. Naturalmente si deve telesindacalizzare. Certo, appena nascono anche i sindacati, i telesindacati, secondo me siamo quel a posto, problema siamo a posto. Va a posto. Però le volevo chiedere un'altra cosa, perché giustamente lei diceva spesso sono i capi che non vogliono questo perché hanno paura di perdere il controllo. Però c'è una ricerca della School of Management del Politecnico di Milano che in realtà dice che le aziende sono pronte, soprattutto le multinazionali, però adesso si stanno muovendo un po' tutte, mai? E invece solo il 20%, secondo questo rapporto, sarebbe dei lavoratori, sarebbe pronto a diventare smart worker. Quindi bisogna capire che molti lavoratori non hanno nessun interesse a fare smart working, perché ovviamente d'inverno in ufficio c'è il calore, il riscaldamento che non costa, d'estate c'è l'aria condizionata che non costa. Alcuni hanno bisogno proprio fisico di socializzazione continua. No, e quindi è anche una questione dei lavoratori a volte, giusto? A volte, ma molto molto a volte. E poi bisogna tener conto che il telelavoro deve essere sempre reversibile. Cioè io faccio telelavoro, però se poi non voglio fare più telelavoro torno alla normalità, diciamo, di un tempo, cioè di andare in ufficio tutti i giorni. Il telelavoro deve essere volontario, non può essere imposto. E il telelavoro va gestito da un capo che sia adatto a telelavorare, che a sua volta non sia ansioso, che non telefoni continuamente, che non rompa le scatole. De Masi, abbiamo un ascoltatore che forse vuol fare una domanda, magari può essere interessante anche sentire cosa ne pensa lei. Pasquale da Roma, sentiamo? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Senti, io sto facendo footing, quindi mi sono fermato, vi ascolto sempre, però sentivo il dottor De Masi, sì? Praticamente che parlava del telelavoro come se fosse, ho percepito io, un gioco, nel senso che lo può fare dal bar con la cassiera. Noi abbiamo, io gestisco 200 persone in Poste Italiane e abbiamo due unità che fanno il telelavoro, però il telelavoro per me è una cosa importantissima, quindi non potrei tollerare che una persona che mi fa il telelavoro vada al bar con la cassiera e ci mette poca attenzione, perché il data entry di persone che hanno fatto delle pratiche rischia di sbagliarsi e quindi conseguentemente ci ma sono che lei, scusi, come fa Pasquale? Cioè a queste due unità che fanno il telelavoro gli chiede di non di andare stare al bar 8 ore sedute, ma semplicemente a casa loro invece che in ufficio? Loro la mattina sono state autorizzate prima di tutto a fare il telelavoro su loro richiesta. Loro la mattina si collegano, badgiano regolarmente, elettronicamente, si fanno le loro 6 ore, rispettando le pause da videoterminale. Noi controlliamo da remoto se hanno fatto le pratiche, se hanno dato entrato del prodotto, e noi siamo tutti regolari, ma tutti tranquilli. Sentiamo il professore subito. Su questa modalità di telelavoro, De Masi, ha sentito? Dunque, spesso le aziende fanno telelavoro in quei tipi di lavoro che non possono essere telelavorati. E lo fanno soprattutto per poter poi dimostrare a se stesse che il telelavoro è una cosa che non si può fare. Ah. In realtà i lavori non sono tutti uguali. C'è una tabella che ormai è in tutti i manuali di telelavoro che ha 11 sfumature di telelavoro. Dal telelavoro, che so, il mio lavoro di scrivere un articolo. Proprio ieri ho scritto un articolo al bar a Piazza Navona. Cioè lei sta dicendo questo di cui parla l'ascoltatore, in realtà dice non è telelavoro, perché non è suo obiettivo, ma è semplicemente 6 ore da casa tua. Non è telelavorabile un telelavoro in cui se entra mio figlio nella stanza, mio figlio piccolo mi distrae e io non posso rispondere al call center. Quello è un telelavoro sbagliato. I telelavori devono essere fatti per lavori in cui il ritmo è scelto dal telelavoratore. Però forse c'è un problema. Al bar, guardi che Sartre, per esempio, ha scritto molti suoi libri al bar. Cioè, non tutti possiamo immaginare di essere Sartre. Comunque, insomma, è interessante che ci sia come dire, anche questa dialettica, questa possibilità. Poi dipenderà dalla singola azienda, dal singolo lavoratore, se quella modalità descritta da Pasquale per quanto riguarda le poste funziona, lo fanno, altrimenti non lo fanno. Senta De Masi, prima di salutarci però, le volevo chiedere, visto che parliamo di lavoro, la sua ricetta, è uscito un libro, Lavorare Gratis, Lavorare Tutti, come funziona? Ce l'ho spiega, funziona così: un italiano in media lavora 1800 ore all'anno, un francese lavora 1500 ore, un tedesco lavora 1400 ore. Fin qua sembra una barzelletta, si ricorda? Ci sono un italiano, un tedesco e un francese. Poi che succede? È una barzelletta che è contro di noi, diciamo. Ora, questo determina il fatto poi che la Francia c'ha il 9% di disoccupati, la Germania ce n'ha il 5% e noi abbiamo il 12%. Allora il problema serio italiano non è tanto Jobs Act, che è costato ben 20 miliardi risolvendo proprio nulla, non è non è la legge Biagi, non è l'abolizione dell'articolo 18, ma è avere gli stessi orari di lavoro della Francia o della Germania. Noi abbiamo 23 milioni di lavoratori che fanno 40 miliardi di ore all'anno di lavoro. Lo stesso monte lavoro, se fosse diviso come in Francia, ci darebbe 4 milioni di posti di lavoro in più. Se fosse diviso come in Germania ci darebbe 6 milioni di posti. Cioè lavoriamo troppo in Italia? Ogni lavoratore lavora troppo? Non lo so troppo, lavoriamo 300 ore più della Francia e 400 più dei tedeschi. Ma queste statistiche che statistiche sono? È interessante. Sono quelle dell'Ocse. Sono quelle dell'Ocse. Sì, se vuole le mando proprio il... Però questo, scusi, corrisponde allora un po'... Allora il problema sì. È come convincere sì. I lavoratori che lavorano a lavorare di meno dando un po' di lavoro ad ai altri. Disoccupati. Come? I disoccupati debbono costringere i lavoratori occupati a cedere un po' di lavoro, perché attualmente un padre preferisce lavorare 8 ore al giorno e il figlio completamente disoccupato. Se invece cedesse 4 ore alla settimana al figlio, potrebbe lavorare anche lui. E per convincerlo il disoccupato, lei dice, l'unico modo che ha è quello di offrirsi gratis. Se ho capito bene. Come l'occupato, per sì. Costringere il datore di lavoro a cedere su un certo contratto, fa lo sciopero, cioè essendo lavoratore non lavora per un certo periodo, sì. Così io propongo che i disoccupati per un certo periodo, che so, una settimana, lavorino in blocco, gratuitamente, e in questo modo spaccano il mercato e costringono i lavoratori e i datori di lavoro a cedere una parte del loro lavoro ai disoccupati. È affascinante, è una bella forma di protesta, mi piace. Ha il merito di essere una proposta, se non una protesta, una forma di protesta che è anche una specie di proposta. Ma questo è un po' il programma del Movimento 5 Stelle? Sta diventando o no? No. Non l'hanno ancora recepito questo. Io cerco di spiegarlo a tutti i partiti, perché a me non interessa chi lo applichi tutto va bene, questo. Va bene, mi giusto. Interessa che si faccia. Perché va bene. È una tragedia il disoccupato che oltre a essere disoccupato si deve vergognare della sua situazione che non dipende da lui. È vero, giusto. Grazie De Masi, buona grazie domenica. Mille. Grazie mille. Buona domenica. Buona domenica, grazie veramente. 800 24 00 24, siamo qua tra pochissimo cercando anche un personaggio, il secondo personaggio di oggi, e il cui indizio è che il personaggio che cerchiamo è un leader. Ed è accaduto qualcosa negli ultimi 7 giorni, quindi pensate, era una notizia importante, un leader. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora, si è scatenato l'inferno sia al centralino che all'SMS, al 348-238-666, in particolare sul lavoro agile, telelavoro o smart working. E telelavoro, anche telefonare qua a Radio 24 è telelavoro, è per quello. Clara da Milano, buongiorno, benvenuta. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno a voi. La mia sì. Osservazione sul telelavoro era una piccola critica, perché sì. Ho condiviso moltissime delle cose che sono state dette, però penso che sia un lavoro pericoloso sotto un certo aspetto culturale per le donne. Adesso la donna fa ancora fatica a vedersi riconosciuto il proprio lavoro, per cui esce di casa e almeno è fuori di casa, e il lavoro di cura, non inteso il lavoro di cura quello casa. Drammatico, non il lavoro di cura come i caregiver di cui parlavate ieri, sì. Continua a gravare sempre su di lei, esce dall'ufficio e affannata va a fare la spesa. Sono stereotipi, ma giusto per capirci. No, è molto giusto, però posso aggiungere solo una cosa. Almeno esce di casa, però no, è molto chiaro. È al lavoro. Ascolti, è molto chiaro quello che sta dicendo, nel senso che sicuramente è servito all'emancipazione, ci mancherebbe altro, però dobbiamo ricordare che il telelavoro deve essere solo una possibilità, mai un'imposizione. Esisteranno sempre lavori per i quali uno dovrà uscire di casa e andare in un luogo fisico, però esistono molti lavori per i quali noi usciamo di casa e andiamo in un luogo fisico e ci sembra assurdo doverlo fare. Se uno ha il desiderio di rimanere a casa, quindi non è che stiamo dicendo le donne a casa a fare le pulizie e anche a lavorare con il telelavoro, che giustamente lei ci sta allertando su questo, ma è sia uomini sia donne che hanno piacere, che sanno di poter lavorare da casa, questo è una possibilità in più e mai un'imposizione. Indubbiamente fosse così l'applicazione, esatto. Però siamo ancora all'inizio e io sono curiosa di vedere come va a finire. E poi c'è un ultimo aspetto, secondo me, che deve essere considerato, e parlo ancora una volta, soprattutto dal punto di vista femminile, e che è l'esclusione da un mondo relazionale che Masi prima ha identificato con il mondo della propria casa e del proprio vicinato, però c'è anche tutto un mondo relazionale all'interno del posto di lavoro che è difficile coltivare in maniera così evoluta. Io penso che il lavoro sia un lavoro d'élite soprattutto. Forse no, invece non dovrebbe essere d'élite in realtà, è giusto quello che dice, ma ricordiamo che comunque si rimane in grandissima parte, in grandissima percentuale ad andare a dover lavorare sul posto di lavoro, quindi il rischio contrario mi sembra ancora molto lontano. Va bene, Clara, grazie per essere intervenuta, per essere stata con noi. 800 24 00 24, per intervenire anche su questo cerchiamo un personaggio della settimana, il secondo di oggi, perché il primo l'avete indovinato molto presto. Adesso ne abbiamo un altro, è un leader, pensate a una notizia degli ultimi 7 giorni se volete portarvi a casa per primi un libro a tema con la puntata di oggi. Adesso un aggiornamento su una vicenda di cui abbiamo parlato tanto, un luogo del cuore, stupendo, un luogo stupendo, stupendo. Batteri amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Panico a Radio 24. Mietta, cos'è? Mietta e Minghi? Ah, vabbè. Certo. Vattene amore. Vabbè, perché volevamo fare questa citazione musicale. Parliamo di un rapporto d'amore un po' complicato. Parliamo soprattutto del castello di San Mezzano. Ecco, noi Francesco Esposito, di nuovo referente del gruppo Save San Mezzano, coloro che hanno provato, stanno provando a salvare questo luogo bellissimo, ma dimenticato. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ah, allora, la notizia è che c'è qualcuno che lo vuole salvare, ma in un modo che forse non è quello che speravate voi, perché questo, ricordiamolo, è un posto bellissimo, luogo del cuore, perché è stato votato luogo del cuore FAI preferito dagli italiani, tra l'altro, dopo che voi avete lanciato questa campagna per salvare un castello privato che era all'asta in vendita e voi temevate che qualche privato si facesse avanti e ci facesse un resort, un hotel, però qualcosa di chiuso, di privato, non più visitabile. Invece voi vorreste, tutti noi vorremmo che si potesse continuare a visitare. Adesso all'asta per la prima volta ci sono arrivati ben due compratori, in particolare una cordata di arabi, che non mancavano gli arabi in Italia perché stanno comprando un po' da tutte le parti. Ci dici chi sono? Si sa qualcosa su questi compratori? Allora, di preciso non si sa chi siano, perché pare sia una società che non faceva attività precedenti, quindi è stata probabilmente appositamente costituita per acquistare San Mezzano. 15 milioni di euro il prezzo. 15 milioni e 400 mila euro, sì. Che il pubblico non aveva, perché voi avete fatto diversi appelli allo Stato, alla Regione, abbiamo avuto anche 5 risposte ufficiali a 5 interrogazioni parlamentari in cui Franceschini diceva che al momento non ci sono i soldi per acquistarlo. Ma questo sinceramente possiamo anche capirlo, perché possiamo immaginarlo, certo, immaginarlo. Sicuramente non è una priorità acquistare un luogo come San Mezzano, però qual è stata la battaglia che avete fatto voi e che credo continuerete a fare anche adesso, nonostante ci sono questi compratori? Noi abbiamo sensibilizzato istituzioni e cittadini in merito alla necessità di valorizzarlo, tutelarlo e renderlo pubblicamente fruibile. Una cosa importante da dire riguardo a quest'asta è che comunque i giochi non sono ancora fatti, perché molti giornali dicevano che il castello di San Mezzano è diventato arabo e gli arabi si comprano San Mezzano. In verità è un'asta che è stata non giudicata in modo consolidato. Infatti è per questo che vi volevamo sentire, perché voi avete fatto addirittura una richiesta di rettifica a tutti i mezzi stampa, giusto? Certo. Dicendo i compratori sono ancora due, sono ancora entrambi. In più ci sono 120 giorni, correggimi ovviamente se sbaglio, di diritto di prelazione, per cui lo Stato potrebbe dire, credo coprendo con la stessa cifra, invece lo prendiamo noi, giusto? Allora, sì, 120 giorni riguardano i soldi che devono sborsare i primi compratori, gli arabi, se vogliono veramente averlo. Lo Stato comunque ha un determinato periodo in cui può esercitare il diritto di prelazione. Diciamo che ci devono verificare altre caratteristiche per cui insomma il castello diventi tra parentesi arabo. Senti, all'interno dello spazio del parco e del castello di San Mezzano vero e proprio c'è anche un hotel in costruzione, se abbiamo capito bene, così? Esatto. C'è esatto. Una previsione di questo. Potrebbe essere una soluzione costruire un hotel, potrebbe essere questo magari un vincolo che può entrare anche nel contratto di acquisto, costruire l'hotel e rendere comunque San Mezzano visitabile, quindi non un luogo chiuso, del tutto chiuso, ma una parte notte potrebbe essere una soluzione. Esatto, l'hotel dovrebbe in realtà essere abbattuto, però la cubatura può essere riutilizzata per costruire altre strutture in determinate zone sempre del parco, potrebbero avere una caratteristica ricettiva, quindi altri hotel o addirittura una struttura unica. Perché infatti immaginiamo che questi arabi comunque un compratore possa avere due finalità: o ci va a abitare, a vivere, possibile, oppure ci vuol fare una struttura ricettiva o qualcosa che, come direbbe, è un investimento che porta un po' di grano. Esatto, il piano regolatore prevede una struttura ricettiva. Quindi evidentemente, probabilmente sarà quello, insomma, il destino. Ma secondo voi gli arabi vogliono andare a viverci o vogliono fare degli alberghi? Io presumo vogliono andare a farci degli alberghi. Ah, ok. Un comportamento logico sarebbe informarsi dal comune, chiedere che cosa ci fanno, cosa prevede il piano regolatore e poi acquistarlo. Noi, a quanto sappiamo, nessuno si è informato presso il comune. Ma siete contenti di questa cordata araba? Siete preoccupati? Allora, noi ringraziamo il cielo che qualcuno si sia presentato. Ah, ok, ottimo. Sì, perché insomma adesso era 30 anni, era in quello stato lì. Quindi chiunque lo acquisterà, arabi, italiani, francesi, russi, chiunque siano, la prima cosa che comunque dovranno fare è restaurarlo. Certo. E questo è già un obiettivo raggiunto, perché noi si promuove tutela, valorizzazione e fruibilità pubblica. Diciamo che una volta l'hanno restaurato, no? Comunque puntiamo a fare ancora sensibilizzazione. Si spera di sensibilizzare loro, si spera comunque anche di offrirgli qualcosa, nel senso, come dicevate voi. Quindi un privato che arriva restaura, e la possibilità di rendere una parte almeno del castello visitabile sarebbe già una soluzione accettabile. Assolutamente sì, perché insomma poi noi gli offriamo i nostri canali comunicativi, quindi diciamo in cambio di questa fruibilità vediamo, ci veniamo incontro, facciamo insomma... Staremo a vedere, siamo ancora a metà di questa storia. E vi tampineremo, vi seguiremo. Grazie Francesco Esposito, grazie per essere stato con noi. Buona domenica. San Mezzano, se non conoscete questo posto basta andare a digitare, a googolare come si dice, e vedrete dalle foto, rimarrete veramente a bocca aperta, perché è un luogo incredibile. 800 24 00 24, un personaggio della settimana in extremis stiamo ancora cercando, che è un leader. Tra poco potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma sai cosa ti dico? Sono d'accordo con Francesco di San Mezzano. Arrivano gli arabi, investono, creano un'attrazione turistica e alla comunità resta tutto l'indotto. Va bene, andrebbe bene. Sarebbe non solo l'indotto. E anche forse dei pezzi del parco. Di vedere, certo, di rendere visitabile il castello. Aldo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Tu. Grazie. Allora, il personaggio a cui pensavo era Barack Obama, perché è venuto a Milano per il Milano City e ha fatto la conferenza, la fiera, ha ricevuto le chiavi della città. Un ritorno di un leader che adesso si sta occupando di tutte queste questioni, alimentazione e sostenibilità. Ma non era lui il personaggio, ma siamo contenti di aver ricordato, di aver avuto Barack Obama qui in città da noi. E non è lui il leader che stiamo cercando, però ripeto, questo è il secondo personaggio di questa domenica, il primo l'avete indovinato. Ed era il divorzio, lo ricordiamo. Abbastanza velocemente, mi sa che per oggi non so se faremo in tempo ad assegnare un secondo premio. Lo cambieremo per settimana prossima, ovviamente. Un aggiornamento da Norcia che ci sta particolarmente a cuore. We Love Norcia, e c'è oggi un evento, chiediamo di raccontarci tutto a Roberto Canali, referente del consorzio We Are Norcia. Buongiorno a voi. Abbiamo poco tempo, però vogliamo esservi vicino. Ci spieghi che cosa succede oggi? Oggi c'è un grande evento a Norcia, è un evento in cui si è mobilitato niente proprio di meno che l'OVS, che è arrivata a Norcia allestendo una zona sia dentro sia fuori la cittadina. Sì. Importante anche il dentro simbolicamente, perché Norcia vive, e in questo giusto momento stiamo per incominciare la adunata per una marcia. Marcia simbolica. Sì. Anche se il termine marcia evoca forse una cosa forte, in realtà è una più che altro una passeggiata. Ma non ci agitiamo noi per una marcia, giusto? Va bene? Assolutamente no. Ma siamo comunque in una giornata molto molto bella, una giornata di sole, ci sono molti bambini che stanno arrivando, molta allegria nell'aria, tanta, l'organizzazione è perfetta, l'organizzazione dell'OVS è veramente perfetta, curata in ogni dettaglio. E l'obiettivo è anche quello di raccogliere soldi, e OVS darà una mano anche a restaurare, se abbiamo capito bene, un'opera all'interno, esatto, della basilica, la bellissima, esatto, basilica di Norcia. Esatto, è un'occasione anche questa per sensibilizzare sul recupero del patrimonio artistico della cittadina colpito dal terremoto. Come va il resto da quelle parti? Ma guardi, la Norcia, fortunatamente abbiamo un morale molto alto nonostante tutto, perché stiamo proponendo di tutto, stiamo veramente cercando di mandare messaggi di propositivi e comunque ahimè dobbiamo chiudere, bravo, esatto, perfetto, Roberto, un'ottima dobbiamo chiusa. Chiudere però, complimenti, l'appuntamento è oggi a Norcia per questa marcia, grazie per averci ricordato questa notizia, questa grazie storia. Noi ci risentiamo sabato prossimo, un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Paolo Corleoni regia, ciao da Alessio Maurizio e ciao da Carlo Gabardini. Faccio anche gli auguri a mia mamma e faccio gli auguri mamme, a tutte, giusto, le mamme, perché oggi è la festa della mamma. Ciao e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao.